as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Allora, abbiamo registrato martedì sera scorso una puntata che vi avevo promesso da un sacco di tempo. Gli ascoltatori del Pane Rose sanno che è un po' di puntate che dico che gli avrei portato qui al Pane Rose una lavoratrice autonoma con cui avevo discusso, che mi aveva mandato dei messaggi su Facebook, su Instagram, insomma, una nostra ascoltatrice, però lavoratrice autonoma, che mi aveva rimproverato più volte di aver detto delle imprecisioni e comunque sia me che il sindacato di non affrontare le varie tematiche legate al lavoro autonomo, soprattutto riguardo alle donne che sono lavoratrici autonome. Ecco, dico subito che questa puntata è veramente da ascoltare e da seguire. Mi raccomando, per chi non ha potuto seguire la trasmissione oppure non riesce a seguire tutta quanta, la troverete nella pagina Il Pane Rose di Facebook o nel mio sito Chi Mi Conosce. E ci abbiamo questa pagina podcast in cui potete riascoltare tutte le puntate che volete. Veramente importante per tutti, sia per chi ci ascolta ed è un lavoratore autonomo, anche per i lavoratori dipendenti, perché in questa puntata sentiremo Donatella, si chiama così la nostra lavoratrice autonoma intervistata, molto competente e nel settore. Lei aiuta gli lavoratori autonomi, chiaramente possiamo fare pubblicità quello che fa, però nel settore si capisce, molto molto preparata, ecco perché l'ho voluta invitare, e ci chiarirà tantissime cose, tantissimi pregiudizi, tantissime cose che noi diciamo in generale che sono tutte sbagliate. Ascoltiamo Donatella, adesso un pezzo musicale, voglio dire subito che la colonna sonora l'ha scelta lei, sono pezzi che noi non mettiamo mai nel Pane Rose, però gli dobbiamo questo per quello che lei ci ha detto, per la disponibilità. Ecco, il merito suo di questa bellissima colonna sonora. Sentiamo questo pezzo di Ivano Fossati, C'è tempo, prendetevi il tempo che volete, poi c'è l'intervista a Donatella, un altro pezzo musicale scelto da lei e poi sono le conclusioni mie. Ciao a tutti. C'è un tempo per seminare, è uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte, e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato, è uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire, e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende. Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Dio, è proprio tanto che piove, e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto come dicevo, qualcosa di buono che verrà, un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Ecco qua, siamo al Panino Rose. Oggi è una puntata davvero, davvero speciale. Vi avevo detto diverse volte in diverse puntate scorse che avremmo avuto una lavoratrice autonoma. Abbiamo discusso in questi mesi perché lei mi ha fatto notare, che è un'ascoltatrice del Panino Rose, che non parliamo mai di lavoratori autonomi, parliamo sempre di lavoratori dipendenti. Questo è vero. Giustamente gli avevo promesso di venire in radio, parlarci di questa categoria, che effettivamente noi che siamo lavoratori dipendenti, io che sono nel sindacato della Fiom e del meccanico, non ne parliamo mai. E alcune volte quando ne parliamo, purtroppo abbiamo degli stereotipi, facciamo dei ragionamenti che alcune volte sono sbagliati. Abbiamo tutta una serie di congetture sul lavoro autonomo che oggi Donatella, che è la lavoratrice autonoma, cercherà di farci cambiare idea. Noi abbiamo già parlato, è chiaro, ha tante cose interessanti da raccontarvi, ha molte cose che secondo me sono corrette e giuste, e gli diamo questo spazio al Panino Rose per parlare finalmente di lavoratori autonomi. Allora Donatella, iniziamo da subito. Noi quando parliamo di lavoratrici autonome, perché tu mi hai parlato proprio delle lavoratrici autonome. Sì, innanzitutto buonasera, grazie. E sì, in particolare vorrei parlare di lavoratrici autonome, perché ancora più dei lavoratori autonomi, essendo legate alla maternità, hanno dei diritti negati maggiori. Quindi quando parlo di lavoratrici autonome parlo di piccole realtà, quindi di negozianti, di commercianti, di realtà dove normalmente non ci sono dipendenti, l'attività è gestita quasi interamente dalla lavoratrice autonoma. Diversa sono invece le realtà più strutturate, dove invece ci sono dei soci oppure dei collaboratori, e quindi in caso di assenza dal posto di lavoro possono essere supportate da qualcun altro. Quindi la situazione delle lavoratrici è quella che a me sta più a cuore, proprio perché da anni vedo le difficoltà in cui si trovano in tantissime occasioni. Tu hai parlato di diritti negati alle lavoratrici autonome. Noi vorremmo sapere quali sono questi diritti negati, perché spesso si pensa che i lavoratori autonomi hanno tanti diritti, no? In realtà non è così. Quali sono questi diritti negati delle lavoratrici autonome? Premetto che innanzitutto le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi fanno un grande lavoro, associazioni di categorie che sono la CNA, la Confcommercio, la Confesercenti, Confartigianato, fanno un grande lavoro, ma purtroppo la realtà è ancora veramente molto molto carente, soprattutto a livello di assistenza. Le tutele che hanno le lavoratrici sono quasi pari a zero. Per capire in maniera molto semplice, che forse è la scelta più giusta, più corretta, basta pensare ad esempio a una lavoratrice autonoma in gravidanza. Allora, la lavoratrice autonoma non si può assentare dal lavoro, prende un'indennità di maternità che è minima, è l'80% di un minimo, non è l'80% dello stipendio, non ha il diritto alla gravidanza a rischio, quindi corre anche dei forti rischi di mettere a repentaglio la propria salute e la salute anche del proprio bambino, del figlio quando è in gravidanza, perché non ha questa tutela e non ha la possibilità di avere l'aspettativa, quindi al di là dei 5 mesi, dove ripeto percepisci un'indennità di poche migliaia di euro, al di là di questo non ha l'aspettativa, quella che normalmente i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti hanno fino al compimento del primo anno di vita del bambino, del figlio. Quindi questa è una situazione in cui la lavoratrice autonoma si trova in forte difficoltà. Parlo di lavoratrici autonome INPS, come ho detto prima, quindi commercio, artigianato, quelle più frequenti. I negozi che noi vediamo normalmente, il negozio di frutta e verdura, la parrucchiera, la lavanderia, negozi di questo tipo, sono tantissime, sono fortemente in difficoltà già per il fatto che subiscono una forte concorrenza sia dall'e-commerce che dalle vendite online. Quindi sono già da un paio di decenni in difficoltà. In più, quando si trovano in questa situazione, in queste situazioni di, ad esempio, legge 104, per fare un altro esempio di diritto negato, legge 104, nel caso in cui abbiano un familiare che in situazioni di disabilità non si possono assentare dal lavoro. Comunque un lavoratore autonomo non si può mai assentare dal lavoro perché è lui stesso il lavoratore che porta avanti quell'attività. E quindi questi sono alcuni dei diritti negati e senza pensare poi alla malattia, ad esempio. Nel caso di malattie, anche malattie gravi, anche malattie fortemente invalidanti, non c'è nessun supporto, quindi spesso sono costrette queste lavoratrici a chiudere, a cessare l'attività e a trovarsi quindi in una situazione non supportata da nessuno strumento come ad esempio l'equivalente nel lavoro dipendente alla NASPI. Tu hai parlato di chiusura di attività. È una cosa reale, abbiamo visto che ci sono un sacco di attività che chiudono, nascono, muoiono. Cioè, cosa accade quando succede che per motivi di salute o di famiglia sono costretti a chiudere l'attività, gli autonomi? Sì, ecco, questa è una domanda molto interessante, anche perché è un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più. Purtroppo è chiamato il fenomeno delle serrande chiuse, lo vediamo quotidianamente, sono sempre di più le serrande chiuse perché questa tipologia di attività, come prima ho accennato, ha delle forti difficoltà, quindi oltre alle difficoltà che dicevo di organizzazione della propria presenza che deve essere costante, c'è anche un problema di difficoltà economica nel portare avanti l'attività. Negli ultimi 10 anni un negozio su 5 ha dovuto chiudere battenti, e quindi questo vuol dire un 20%. Sono più di 100.000, più di 111.000 le attività commerciali che hanno chiuse e sono più di 20.000, circa 24.000 le attività di commercio ambulante. Per commercio ambulante si intende, tanto per capirci, chi fa i mercati, che anche questi sono commercianti. E quindi è proprio un'ecatombe, questa è proprio una strage. E dobbiamo pensare anche a vedere queste attività non solo come dei piccoli lavori, piccoli perché sono imprenditori ma sono piccolini, ma anche come presidi che danno vitalità al centro storico, che danno sicurezza, che danno soprattutto un tipo di socialità diversa. Cioè, una cosa è andare al centro commerciale e buttare dentro il carrello tutto quello che ci viene voglia di comprare, un'altra è uscire di casa, incontrare il fornaio, fare due chiacchiere, trovare l'amico, prendere il caffè. È proprio un tipo di spesa più consapevole, anche di socialità diversa, che dovrebbe essere incentivata. Purtroppo invece la situazione è in continuo declino. Ci vorrebbero delle operazioni da parte degli enti di rigenerazione urbana proprio per salvaguardare questa ricchezza, perché è una ricchezza per i centri storici. Se noi pensiamo a un centro storico con tutti i negozi chiusi, per assurdo, se noi proviamo a immaginarcelo, è un dormitorio, ecco, cioè il piano il piano terra sotto i portici, a Bologna abbiamo i portici e anche nei paesi in provincia, con i negozi, con le vetrine accese, con i negozi aperti e le persone che entrano e escono, è un tipo di socialità molto, molto diversa da quella che può essere l'esodo al sabato, alla domenica, verso un centro commerciale. Interessante quello che hai detto, mi hai convinto. Però adesso, nota polemica, partiamo proprio dalla nostra discussione, perché tu mi hai chiamato dicendo: guarda che tu stai parlando di evasione fiscale, di noi autonomi che evadiamo, che c'è l'evasione fiscale, tutto il resto, la flat tax, tutto il resto, ma in realtà non è così. Allora, io ho sempre pensato, ma io dico noi perché in realtà i lavoratori dipendenti sono convinti che fondamentalmente uno dei motivi, le ragioni che hanno creato quello che tu fino adesso hai detto e raccontato, una delle ragioni secondo noi è anche il fatto che gli autonomi evadono. Cioè, nel senso che il ragionamento è: siccome gli autonomi evadono, è chiaro che non ci sono risorse per poterli dare la cassa integrazione, la malattia, la maternità e tutto il resto. Cioè, non ci sono per i dipendenti che non evadono, figurati un po' se possono esserci per gli autonomi, che sono tra i più grossi evasori che ci sono in Italia. Questa narrativa, cioè, è corretta? Perché tu su questo qua hai tanto da dire. Sì, ti ringrazio anzi di questa domanda, perché mi pare giustissimo porla, ed è una domanda che mi sono posta anch'io, perché è sempre stato un ragionamento un po' sommerso questo. Cioè, non si capisce perché ci siano questi diritti negati, nello stesso tempo è fuor di dubbio che ci sia sempre stata la tendenza all'evasione, e io sono la prima a dire che l'evasione deve essere combattuta a qualsiasi livello. E quindi ti ringrazio per la domanda innanzitutto ritengo sia doveroso contrastare l'evasione in tutti i modi. Il fisco e la Guardia di Finanza negli ultimi anni hanno affinato molto gli strumenti per la lotta all'evasione, e soprattutto con l'introduzione della moneta elettronica, del pagamento tramite il POS per intenderci, la situazione si è sicuramente ridimensionata. Penso che sia necessario un'azione diversa e anche più efficace da parte di Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate, anche perché non è giusto che per colpa di chi evade, poi ne venga danneggiata tutta una categoria. Aggiungo anche che purtroppo non sempre le norme che vengono emanate vanno in questa direzione. Ad esempio, la penultima legge di bilancio dell'attuale governo ha portato la soglia del contante, del pagamento in contante, a 3.000 euro, da 1.000 a 3.000, e questo di sicuro non è una manovra che va a favore della lotta all'evasione. Quindi io mi auspico maggiori controlli e mi auspico un miglioramento di questa situazione, ma anche però il riconoscimento di qualche tutela in più a favore delle lavoratrici donne, delle lavoratrici autonome, che oggi devo dire proprio non ne hanno nessuno. E questo è il mio augurio, quello per cui da parecchio tempo lavoro in questa direzione e continuerò a lavorare. Un'altra domanda ti volevo fare. Ci abbiamo ancora un po' di tempo e ne approfittiamo, perché è una cosa di cui abbiamo anche discusso, però noi come lavoratori dipendenti non l'abbiamo capito bene, ma anche nel sindacato, io so che sono un dirigente sindacale, te l'ho raccontato, quando si parla di flat tax noi ci immaginiamo che tutti i lavoratori dipendenti paghino il 15% di tasse. Però tu mi dici che non è così, ci spieghi meglio questa flat tax, le persone che sono coinvolte, chi veramente ne gode, se tutti gli autonomi ne possono usufruire, perché ce l'hanno venduta un po' così. Sì, allora premetto che io non amo le tasse piatte in nessuna delle forme. Esistono in Italia più tasse piatte, una ad esempio quella sugli affitti, ne possono godere tutti quelli che hanno un appartamento che concedono in affitto, un'altra, poi ce ne sono anche altre, un'altra è la flat tax, il cosiddetto regime forfettario, cioè lavoratori autonomi che non superano la soglia di 85.000 euro di fatturato, anche questo aumentato dall'attuale governo, precedentemente era 65.000 e secondo me era già un parametro alto, anche troppo alto, ed è stato portato a 85.000. Regime forfettario, quindi lavoratori autonomi che non superano questo fatturato e che rispondono a determinati altri requisiti, quindi spese per collaboratori inferiori a un certo limite, quindi non hanno esercitato prima la stessa attività, quindi adesso non voglio poi annoiare troppo, comunque possono godere di questa tassazione al 15%. Cosa posso dire? Che io non la trovo giusta. Cioè, purtroppo... Ma chi sono i forfettari? Allora, i forfettari innanzitutto sono qualunque attività, qualunque partita IVA individuale, quindi si parla di realtà piccole, che però per il verificarsi di certe situazioni, di certi parametri di legge, può optare. Quindi sono una parte piccolissima della platea delle partite IVA, una parte minima, un po' perché... quasi sempre non c'è la convenienza, quindi viene venduta anche un po' come manovra politica, diciamo così, viene venduta un po' come la panacea, in realtà spesso non è conveniente neanche al contribuente. Però a quel contribuente al quale conviene optare per questo tipo di tassazione può essere particolarmente favorevole. Quindi da qui il mio contrasto a questa, però devo anche dire che sono una parte piccolissima del lavoro autonomo, quindi quando parliamo di lavoro autonomo parliamo di una grande, di un 90% o forse oltre, che pagano l'IRPEF, cioè la tassa che colpisce tutti i redditi, e una piccolissima parte di lavoratori autonomi che hanno scelto questo regime. C'è un esempio, un forfettario chi è? Classico un forfettario? Un piccolo professionista che non ha dipendenti, sì, potrebbe essere un avvocato magari che non ha lo studio, quindi non deve, perché il regime forfettario non permette la deduzione di nessun costo, okay. Quindi un professionista non ti può scaricare niente, né di spese dell'attività, ma neanche di quelle personali, neanche le spese mediche. Per questo motivo spesso non è conveniente. Di conseguenza... già spetta pochi contribuenti, a una parte di queste non è conveniente, per cui nella platea totale rappresentano una parte estremamente piccola del lavoro autonomo. Un negoziante non gli conviene perché no. Deve scaricare libri. Bravissimo. Deve e dunque, scaricare. Probabilmente questo è stato fatto anche per privatizzare un po' tutti i medici della sanità, perché se io lavoro nel pubblico e passo nel privato divento un forfettario. Molto probabilmente, perché non c'ho da scaricare niente, se vado a lavorare per una clinica privata, ad esempio, io con la partita IVA, nella teoria, potrei utilizzare il forfettario. Sì, allora questo regime è conveniente, alla fine bisogna sempre fare dei conteggi esatti, e comunque a quei lavoratori che non hanno spese, quindi il professionista che vende la propria professionalità ma non ha bisogno di acquistare merci come il commerciante, oppure non ha uno studio, non deve pagare l'affitto, non deve pagare le utenze perché lavora presso le aziende, o è un agronomo, quindi presso le aziende agricole. Ecco, in questo caso può essere conveniente quel tipo di tassazione rispetto alla tassazione tradizionale. Però, ripeto, sono casi abbastanza rari. Purtroppo alcune volte sono lavoratori dipendenti che sono mascherati da lavoratori autonomi. Certo. E questo è... Pensavo io. In questo caso, ripeto, la mia opinione è quella che devono essere fatti dei controlli, perché le tutele che hanno sono estremamente inferiori a quelle dei dipendenti, quindi hanno diritto ad avere quelle del lavoro dipendente, se hanno un vincolo di subordinazione. Allora, Donatella, mi hai aperto un mondo... Mi hai fatto cambiare alcune idee che avevo io del lavoro autonomo. Penso che chi ci ascolta, la maggior parte siamo lavoratori dipendenti, che ascolta il Pane Rose, avranno capito tante cose. Ti ringraziamo e ti dico che quando vuoi venire in radio a raccontare dei lavoratori autonomi, perché dal mio punto di vista siamo tutti lavoratori, chi lavora del proprio lavoro, chi campa del proprio lavoro, della propria fatica, è un lavoratore, a prescindere se è autonomo o dipendente. E dunque il Pane Rose sarà benvenuta. Ti ringrazio per il contributo che hai dato e spero che sia apprezzato anche dai nostri ascoltatori, ma sicuramente lo sarà stato. Grazie mille, Donatella. Grazie a te, Gian Placido. Buonasera. Avete ascoltato un pezzo bellissimo scelto dalla nostra lavoratrice autonoma Donatella. L'avete sentito? Chi si è perso questa puntata vada ad ascoltarlo assolutamente, in cui abbiamo parlato dei lavoratori autonomi di cui non abbiamo mai parlato in questa trasmissione. Donatella, che è molto ferrata nel settore, aiuta gli lavoratori autonomi, chiaramente si capisce e si sente. Devo dire che è interessantissimo, ci sono un sacco di cose importanti per tutti i lavoratori che ascoltino e capiscono, insomma, tutto un mondo che purtroppo viene spesso bistrattato. Ecco, io dico pochissime cose, oltre a una sonora, ripeto, ci sono tantissimi argomenti interessanti e mi ha fatto molto riflettere questa puntata. Effettivamente noi lavoratori dipendenti, chissà come me nel sindacato, guardiamo spesso il lavoro autonomo in maniera sbagliata. Uno guarda la storia, in passato i movimenti dei lavoratori non erano così lontani dai lavoratori autonomi. Dovremmo tornare a essere lì vicino a loro, creare qualcosa anche di politico che affronti la questione, così come Donatella ce l'ha posta, perché ce l'ha posta da donna di sinistra, chiaramente, chi ascolterà nella... All'interno dei lavoratori autonomi ci sono tantissimi compagni e Donatella è una di questi. E devo dire che è importante che il movimento sindacale, i movimenti politici che vogliono rappresentare i lavoratori affrontino tutte le questioni poste a Donatella e vengano risolte. E io nel mio piccolo ho dato il mio contributo e lo continuerò a dare, perché la battaglia non è ancora iniziata in realtà, dobbiamo iniziarla e dobbiamo concluderla. La battaglia dell'emancipazione di tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi. La prossima puntata compagni con tante altre sorprese e ringraziamo di nuovo Donatella. Ciao Donatella. Orgoglioso de estar. Orgoglioso.